voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Anna Ferrino, una tenda in cima al mondo, da più di 140 anni, di Anna Marino. Da piccola sono stata in campeggio praticamente tutte le mie estati. La famiglia Ferrino passava le vacanze in campeggio. E ho dei ricordi straordinari perché all'epoca si poteva fare campeggio tipo in Corsica, in Sardegna, sulle spiagge più belle, vedi Capriccioli, a 20 metri dal mare. Ed era, immaginate, per dei bambini un'emozione straordinaria. E quindi il campeggio è una cosa che conosco molto bene. Adesso mi diletto di tanto in tanto, mi piace molto il campeggio nel deserto e dormire in tenda sotto i cieli stellati, nel silenzio assoluto e nell'assenza totale di inquinamento luminoso che provi, è una sensazione unica che puoi provare solo campeggiando nel deserto. E poi il grande rapporto con la montagna. La famiglia Ferrino è sempre stata molto legata alla montagna, ad una montagna in particolare che è il Monte Rosa, dove si sono conosciuti i miei nonni, dove negli anni 30 si sono costruiti una casa e hanno curato per molti anni un giardino roccioso molto bello di flora appunto alpina. E quindi io ho sempre frequentato quella montagna e la frequento tuttora, praticamente tutti i fine settimana. Girano intorno a tutta la sua vita, dall'infanzia in poi, i ricordi e le esperienze di vacanze all'aperto che sono ben piantati nel terreno dell'azienda di famiglia, come picchetti forti e resistenti alle intemperie. Li racconta uno ad uno Anna Ferrino, quinta generazione della famiglia Ferrino, marchio italiano di attrezzature e abbigliamento per la montagna. Tutto inizia in un negozio di vernici di Torino nel 1870. Nella sua bottega, in via Nizza 107, Cesare Ferrino inventa una tecnica rivoluzionaria per rendere impermeabili i tessuti per tende e coperture. L'idea ha un successo immediato in tutta Italia e da quel piccolo negozio torinese parte un viaggio lungo 140 anni che ha portato il marchio Ferrino a raggiungere i luoghi più lontani e inaccessibili del nostro pianeta. Da quell'intuizione è nata la storia delle innovazioni dell'azienda e della famiglia Ferrino. Siamo nel 1870, siamo a Torino. Il mio trisavolo Cesare Ferrino aveva un laboratorio sostanzialmente di colori, di vernici, di non si capisce bene, simil chimico, e crea una formula per impermeabilizzare i tessuti basata su delle cere, delle paraffine sostanzialmente. Poi si reca in Germania e compra dei macchinari e inizia a produrre delle tele impermeabilizzate. Tanto che all'epoca addirittura un'attività molto redditizia per la sua nascente aziendina era l'affitto di queste tele impermeabilizzate per la copertura dei tetti quando questi tetti venivano scoperchiati per essere rifatti. Siamo appunto, la realtà va inquadrata su una Torino che ha perso da poco il ruolo di capitale e quindi si sta, come dire, strutturando per diventare quella che poi sarà conosciuta come un po' la capitale industriale d'Italia. E quindi è molto da vedere un grande fermento nel nostro territorio in quel periodo, tantissime aziende nascenti, tra cui appunto la Ferrino. La figura del trisnonno non ha inventato soltanto un prodotto, ma ha regalato alle generazioni successive un'idea di impresa perenne. E ruolo importante hanno avuto anche le donne di famiglia, tutte con una speciale capacità di resistenza agli eventi. Quello che mi ha sempre commosso di questo personaggio, che peraltro poi dalla data di fondazione dell'azienda ha vissuto ancora pochi anni ed è stato veramente buffo capire come poi ad interim per un periodo finché il figlio non crescesse, in realtà la Ferrino è stata gestita dalla sua vedova e quindi da una donna, e questa è una cosa che mi diverte e mi piace molto. Comunque lui ha avuto due contenuti che sono sicuramente ancora attualissimi e fondamentali per fare impresa anche oggi, che sono stati appunto l'innovazione, cioè innovare un processo o comunque un'invenzione, e l'intuizione di un posizionamento che all'epoca era veramente nascente e che incredibilmente sta consentendo ancora oggi alla nostra impresa di sopravvivere, non snaturando il posizionamento, che è veramente abbastanza originale, no? Nel mondo del fare impresa, perché ci sono imprese longeve, ma non necessariamente imprese che dopo 143 anni fanno ancora e sempre le stesse cose con lo stesso tipo di posizionamento. dal tessuto alla manifattura delle prime tende in dotazione a esploratori e alpinisti. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, il momento della grande conquista delle vette e delle Alpi, e nel 1890 inizia l'avventura Ferrino in Italia e nel mondo. I grandi alpinisti italiani e i grandi esploratori italiani sono quasi tutti stati in quei tempi del nostro territorio. Pensiamo al Duca degli Abruzzi, pensiamo un pochino più tardi a Padre De Agostini, ai grandi alpinisti biellesi, eccetera. All'epoca chi faceva queste avventure? Gli inglesi. Nel mondo dell'esplorazione e dell'alpinismo si guardano gli uni con gli altri, e per cui anche i nostri hanno avuto la voglia e la tenacia di andare a provare fuori, e quindi questo ci ha consentito di equipaggiarli e di portare le nostre tende nei luoghi più remoti della terra. Parallelamente a questo, il core business, chiamiamolo così, dell'azienda era però il settore militare o il settore del lavoro, essenzialmente tende per uso militare, coperture per i carri e abbigliamento impermeabile da lavoro. Anche l'industria inizia a diventare terreno di conquista. Nel boom economico nascevano e crescevano insieme, facendo rete, diverse realtà industriali. Ferrino annovera tra i suoi clienti anche la neonata Fiat. Si dice che lo stesso senatore Giovanni Agnelli uscì dal laboratorio Ferrino con una capote sotto braccio. Una degli episodi più buffi tramandati nella nostra famiglia di generazione in generazione. Sembrerebbe che il senatore Agnelli andava direttamente da mio trisnonno ad ordinare, col disegno sotto il braccio, a ordinare le capote, le prime capote delle auto Fiat. E quindi si intrattenevano lì, nel frattempo in laboratorio facevano queste capote, e pare che lui un paio di volte sia uscito direttamente con la capote sotto il braccio per leccarsi, peraltro, alla Fiat, che era vicinissima, perché Corso Dante e via Nizza 107 è una distanza percorribile a piedi. I primi 50 anni del Novecento sono gli anni dell'alpinismo leggendario. Tecnologia e ricerca portano Ferrino a diventare parte essenziale di queste grandi imprese. Ecco come la tecnologia Ferrino conquista nuovi primati attraverso le due guerre, subendo anche un bombardamento come obiettivo sensibile e uno spostamento temporaneo della sede produttiva, ma tiene il punto ora come allora. Questa attitudine di fare le cose insieme, di accettare le sfide da parte degli esploratori, ci ha contraddistinto in passato, ma ci contraddistingue ancora oggi. Veramente noi abbiamo ancora oggi un'unità di prototipia dove facciamo progetti speciali per le spedizioni, e siamo riusciti veramente a fare dei progetti incredibilmente assurdi e a volte anche strani, voglio dire, magari non perfettamente coerenti magari con il nostro posizionamento, proprio per la voglia di poter apprendere da chi fa delle imprese straordinarie e di poter giocare la nostra parte in quelle imprese. Nel 1960 nasce una nuova cultura: vivere all'aria aperta, on the road. Ferrino è il punto di riferimento naturale per un'intera generazione. È il momento divulgativo della tenda e del campeggio, con le famose canadesi o tende a casetta in cotone, con nuovi e colorati tessuti. L'Italia poi inizia il suo percorso di ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'occupazione, insomma, la gente inizia a lavorare, a maturare diritto alle ferie, a volersi godere le ferie. In quel momento lì mio padre, sulla falsa riga del fenomeno del campeggio per tutti, che era nato e che ormai si stava posizionando in modo importante, in particolare nel mercato inglese e francese, lui ha deciso di diventare un pochino il brand italiano per il campeggio. È veramente interessante vedere anche come, da un punto di vista proprio di design, l'oggetto tenda da campeggio ripercorre comunque quella dedicata a un campeggio più, diciamo così, vacanziero, quindi che emula di più la casetta, per intenderci, ripercorre poi comunque quello che è il trend del design vero e proprio per la casa. Nel 1984 ha origine una lunga collaborazione, ricca di progetti e soluzioni innovative, tra Ferrino e Reinhold Messner. Anna Ferrino ricorda il legame fortissimo di Messner con suo padre e con la tenda Ferrino, da cui a volte dipendeva la stessa sopravvivenza degli esploratori in condizioni estreme. L'episodio forse più divertente è legato alla spedizione all'Antartide. Siamo negli anni 90, all'epoca non c'era tutti i GPS, telefoni satellitari. Quindi Meisner parte con questa tenda per questo viaggio molto impegnativo. Era dotato unicamente di un GPS che poteva trasmettere il suo segnale. E quindi dall'Italia si capiva se lui avanzava. E a un certo punto questo segnale si è imballato e per più giorni era fermo e quindi tutti hanno pensato veramente il peggio. In realtà era fermo perché era capitata una tempesta terribile e il meteo aveva impedito al segnale di inviare la trasmissione. E quindi mio padre era in ansia da morire e poi a un certo punto, quando questo segnale ha ripreso a battere e quindi hanno capito che era solo uno stop momentaneo e che lui andava avanti, la gioia è incredibile e poi quando Meisner terminò l'impresa e arrivò alla base, telefonò a mio padre e gli disse: "È stato terribile, una tempesta tremenda, sappi che la tua tenda mi ha salvato la vita". Anna Ferrino ha raccolto e saputo attualizzare l'eredità dei 140 anni e così racconta il suo passaggio generazionale. Io credo che le aziende di famiglia siano un patrimonio bellissimo e interessante. Io personalmente ho la convinzione che non ci si debba arrivare come prima tappa del proprio percorso lavorativo. E quindi io ho fatto delle esperienze fuori che sono state sicuramente interessanti. Io ho imparato a lavorare sul campo, prima per una tessitura francese della quale gestivo la parte commerciale in Italia, quindi sostanzialmente vendevo tessuti alle aziende di confezioni italiane. Dopodiché è nata un'opportunità attraverso Ferrino, siamo qua nel 1995 circa, di curare l'introduzione e la distribuzione in Italia di un grossissimo marchio di outdoor che è un marchio americano, fabbrica prevalentemente abbigliamento e meno attrezzatura, però era per me molto interessante poter fare un'esperienza in una grande azienda, una grande multinazionale dello stesso settore di appartenenza della mia azienda di famiglia. Sono partita da zero e per 10 anni ho lavorato per loro. Le ricerche proseguono tutt'oggi a tutto campo nei luoghi più remoti della Terra, dai ghiacciai islandesi alle Alpi, dalla Patagonia all'Antartide, dai deserti al K2, alla Cueva de los Cristales in Messico, un ambiente impossibile per alta temperatura e umidità, e una tuta Ferrino consente di sopravvivere 80 minuti, dove l'uomo ne sopravviverebbe pochissimi. Imprese impossibili nei luoghi più ostili del pianeta. Negli ultimi anni arriva anche l'abbigliamento tecnico e nel 2010 il logo si rinnova per i 140 anni. Oggi l'export è al 40%. Lo spirito di adattamento a qualsiasi condizione, secondo Anna Ferrino, è la linea guida per l'azienda e per i cambiamenti del futuro. Le aziende si devono adattare ciclicamente alla storia in cui vivono, non si può vivere facendo a meno o facendo finta di vedere. Ecco, la grande sfida è quella. Io credo che noi oggi con questa crisi dobbiamo riguardare un attimino il nostro business, ma sono fiduciosa nel futuro e credo che anche questa volta ce la faremo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.